Jesus è uno dei giocatori che sono più in difficoltà in questo momento, tant'è vero che lo ha sostituito nell'intervallo. Qual è il problema di questi giocatori? È che le galline riccioni hanno bisogno di mezzo chilo di Gran Turco ogni giorno e bisogna dargli da mangiare. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Fortunatamente conta il pensiero della società. La società la pensa in un modo diverso, pensa che De Boer abbia bisogno di tempo, pensa che De Boer stia facendo comunque un buon lavoro e stia trovando pian piano quella che è un'identità di squadra. È ovvio che dobbiamo anche vincere le partite, perché poi conta questo e conta soprattutto migliorare la classifica. Tu non ascoltare le cose che non servono. Va Freuler, pallone prolungato sul secondo palo, sbuca Masiello e porta l'Atalanta in vantaggio, la torre di Kurtic, ma è Masiello che sentenzia l'1-0, Atalanta avanti. Deluso in la prima parte, in seconda parte ok, io voglio vedere della nostra squadra, però non come la prima parte, è come abbiamo giocato con un po' di paura, non so come, perché. Io ho detto il riposo e dopo è cambiato per me tutta la partita. Non lo so. Che sì, pensa al tiro, poi giù, calcio di rigore. Fallo di Santon di rara ingenuità. Parte Piniglia. Col destro andando di stocca, ma non basta. L'Atalanta passa il vantaggio a 2 minuti e mezzo dalla fine con Maurizio Piniglia, 2-1. Mercoledì pensa di esserci in panchina, De Boer, nel senso lei sente la fiducia al punto da pensare assolutamente come certa la sua presenza mercoledì? Non so. Io l'unica che io posso fare è il lavoro duro. Chiaro. E analizzare questa partita come cambiare, specialmente il primo tempo. Lo sa De Boer, non lo sa nessuno, forse in questo momento non lo sa nemmeno l'Inter, ed è questo l'aspetto più grottesco di tutta questa crisi che ha preso i nerazzurri, 14esimi in classifica. Ieri terza sconfitta consecutiva, quarta in campionato, sesta in 12 partite, quelle giocate fin qui da una squadra che non ha né capo né coda. Leggo il dispaccio dell'Ansa di qualche minuto fa: Frank De Boer potrebbe rimanere allenatore dell'Inter fino a mercoledì, quando i nerazzurri affronteranno il Torino. Il club avrebbe confermato l'allenatore in attesa di individuarne un possibile successore. Gardini e Ausilio attendono i vertici del Suning e Toier per capire quale strada imboccare. E intanto l'Inter scende. 800 24 00 24, ditecelo voi cosa deve fare l'Inter, diteci se De Boer è davvero il colpevole o se sono più colpevoli i giocatori. Pierluigi Pardo, ciao. Ciao, come va? Tu lo sai? Ma no, io penso che De Boer abbia delle sue colpe evidenti, cioè il voto a De Boer fino ad oggi non è un voto ovviamente positivo, però penso pure che se tu scegli un marziano, cioè scegli un uomo che appartiene a un'altra scuola calcistica, a un altro mondo, a un'altra generazione, ti assumi il rischio e secondo me non lo cacci dopo 9 giornate. Questa è la mia idea. Secondo me lo cacci, dovevi cacciarlo forse anche una prima. Aspetta che coinvolgo anche uno strenuo difensore di De Boer, almeno fino a ieri sera. Fabrizio Biasin, ciao Giovanni, ciao Pier, dai, difendilo. Ma io in questo momento penso che non si debba parlare di De Boer, perché capisco che il problema è centrale, ma ce n'è uno ulteriore. Cioè, a prescindere da qualunque decisione prenderà l'Inter, non si lasciano passare 20 ore di silenzio. Cioè l'Inter aveva il dovere di dire qualcosa subito. Questo è il nostro allenatore e noi andiamo avanti con quello, fatevene una ragione, oppure cambiamo allenatore. 20 ore di silenzio sono la prova che c'è un problema superiore a quello dell'allenatore. Sì, però Pier, quello che abbiamo visto ieri in campo, ma non solo ieri, dice che c'è anche un problema immediato. Poi ragionamenti li facciamo da agosto, sulla società, su chi decide, su procuratori, su tante cose. Sì, c'è un problema nell'immediato, no, però secondo me ha ragione Fabrizio, perché mi sembra la replica della puntata di una settimana fa, quando parlavamo di Icardi e della curva. Un elemento in comune c'è, ed è questa mancanza di velocità che esiste nelle comunicazioni. Poi, perché la velocità non è sinonimo di efficacia, eh. Io penso che l'Inter dal punto di vista societario stia crescendo, sia cresciuta, si sta aprendo su dei fronti orientali. Io diciamo che a un bambino nerazzurro di 12 anni mi verrebbe a dirgli stai tranquillo e stai sereno, perché ci sono prospettive secondo me più solide, più internazionali rispetto a qualche anno fa. Sì, magari può sembrare anche ironico, Pier, detto a un bambino di 12 anni tifoso dell'Inter che magari ha il padre che ha aspettato per mezzo secolo la Coppa. Intanto un bambino di 12 anni aveva vinto il triplete, ricordiamolo. No, ma adesso a parte tutto, la cosa bella secondo me, a parte che stai sereno porta sfiga, lo sapete, quindi gli direi stai tranquillo. Però no, a parte le battute, penso che però sia così, cioè penso che l'Inter abbia una dimensione da grandissima realtà nel calcio europeo e mondiale, e ha una proprietà in questo momento che è una proprietà magari meno, che ci emoziona di meno del grande vecchio presidente Moratti con la sua passione intatta e purissima, è qualcosa di un pochino diverso, però secondo me in prospettiva ci sono logiche che potranno funzionare. Dal punto di vista dell'area tecnica in questo momento ci sono dei problemi anche banalmente di comunicazione, la mancanza di un uomo forte, di un, non voglio dire plenipotenziario, ma quasi, che sia qui sul pezzo e che possa decidere, possa gestire, possa usare, alternare bastone e carota nel rapporto con la squadra, possa dare una mano a De Burro, a chi per lui, a chi è l'allenatore. Ecco, questo è il vero tema secondo me in casa Inter, sì. Ed è un tema di fragilità indiscutibilmente. Sì, capiremo se a metà settimana qualche provvedimento verrà preso. I cinesi stanno per arrivare, Toiran che io trovo inquietante anche che debba decidere Toiran il prossimo allenatore. Fabrizio Toir, che ha gestito male, lo possiamo dire, noi lo dicevamo da agosto, altri ha scritto che no, era giusto così, però insomma ha gestito male tutto, compresa la scelta di De Boer. Sì, io non credo che sarà una decisione di Toir la prossima, se dovrà arrivare, sarà una decisione della proprietà cinese congiunta con chi in questo momento è chiamato a prendersi delle responsabilità, e quindi Ausilio, quindi Bolingbrook e quindi Gardini. Voi avete mai sentito la voce di Gardini? Io no. Dopodiché è evidente che De Boer non ha mantenuto nessun tipo di promessa, ma è anche vero che è stato scelto a fine agosto, è anche vero che ha un tipo di mentalità che non scopriamo oggi, è anche vero che secondo me ha ancora tutto il diritto di sbagliare. Il problema è che deve sbagliare con la sua testa, perché nessuno mi leva dalla testa che ieri De Boer ha fatto confusione seguendo le idee di qualcun altro. Il problema è che dovrebbe sbagliare meno. Questo perché, sicuramente. Perché anche con la sua anche con la sua testa non è che fino a una settimana fa l'Inter fosse una bellezza. No, non era una bellezza, però è anche vero che qualcosa di buono, adesso probabilmente spegneranno le radio, però qualcosa di buono nelle prime uscite secondo me l'Inter l'ha fatta vedere. Ed è proprio quello il problema, cioè bisogna andare avanti su quella strada. Nessuno mi leva dalla testa la partita dell'Inter contro la Juventus. Può capitare una partita così bella nell'arco di un campionato e poi che non si ripeta, ma neanche che tutte le successive partite siano un disastro come quelle che abbiamo visto ieri. Assolutamente. Mi dici Fabrizio, poi ti saluto, c'è il traffico in 30 secondi, italiano o straniero, che poi significa vincere magari la linea cinese o vincere l'anima italiana, questo abbiamo letto oggi sui giornali, poi raccontiamo un retroscena. Ma io se dovessi scegliere sceglierei un italiano, ma se invece avessi veramente pieni poteri andrei davanti alle telecamere e direi questo allenatore Frank De Boer è l'allenatore dell'Inter e non si muove da qui. Hai capito Pier? Io penso che se cambi devi fare una scelta completamente diversa, cioè non è che puoi mandar via De Boer per prendere un altro sperimentatore, per prendere DS, ecco, ad appunto, esempio, esatto. Per fare un nome. Secondo me no, voglio dire, perché cioè se tu mandi via De Boer e prendi Bielsa, stai continuando a smentire, cioè vuol dire che hai fatto una scelta, la smentisci, ma la smentisci sulla persona, non sul concetto. Esatto. Io penso ricominci da capo. Io penso che la scelta migliore sia tenere De Boer, perché credo che che De Boer comunque, se l'hai presa, ripeto, o meglio, per me la scelta migliore era non prendere De Boer. Però adesso bisogna arrivare in fondo. Adesso bisogna difendere e arrivare in fondo. Non lo puoi mandare via dopo 9 partite, secondo me. Abbiamo il traffico, Pier. Saluto Fabrizio Biasin. Ciao Fabri, alla prossima. Ciao Giovanni, ciao Pier. Buona giornata. Traffico, torniamo subito, vi aspetto. 800 24 0024. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Bobo Viel. Tutti convocati. Anche oggi dedicheremo tanto a quel cadavere dell'Inter. Rispondo a Mirko da Vicenza che scrive 349-238-6666 e del resto questo è il tema di giornata. Qualche messaggio è arrivato. Mancini ha impiegato un anno e mezzo per rovinare l'Inter, per far spendere decine e decine di milioni. Io ricordo che Mancini nel terribile girone di ritorno dell'anno scorso aveva una media punti nettamente superiore di quella di oggi di De Boer. Certo. Nel girone di ritorno, non stiamo parlando del girone dell'andata. Miglior allenatore in tempi recenti dell'Inter si chiama Walter Mazzarri. Sì. Numeri alla mano. Numeri alla mano. Mi rendo conto che può sembrare una provocazione. Mazzarri ha avuto grandi problemi di comunicazione e di sintonia con il pubblico, quindi questo è indiscutibile. Poi c'è chi suggerisce al bambino di 12 anni di cambiare squadra, è ancora in tempo, la Juve, il Toro, fate voi, il problema è che metà dei giocatori giocano contro l'allenatore, Brozovic per primo, secondo me no, altrimenti nei secondi tempi contro Southampton e anche ieri con l'Atalanta non si sarebbe visto qualcosa di meglio rispetto ai primi. Non so Pier come la pensi tu, intanto saluto Massimo Mauro che coinvolgo, ciao Massimo. Ciao, buongiorno, ciao Pier. Non credo che il tema sia questo, cioè che ci sia qualcuno che gioca contro. Ma non chi mi risponde? Una cosa così non esiste, è che i tifosi a un certo punto perdono la testa e quindi devono, però chi è il giocatore che gioca contro? È vero che in situazioni difficili magari i giocatori scaricano le responsabilità sull'allenatore, quello sì, però la partita non la giochi con ieri, allora Santon ha fatto apposta a fare un grave errore, ha fatto un grave errore, ma non è che l'ha fatto apposta per mettere in crisi l'allenatore. Ce la spieghi bene questa cosa, perché secondo me, ecco, detta da chi ha giocato ad alti livelli con grandissimi campioni, perché questo secondo me è uno dei grandi equivoci che c'è, no? L'idea che veramente uno possa perdere apposta, togliendo ovviamente le situazioni criminali che ci sono state, sono appunto situazioni criminali e quindi grazie a Dio isolate. Ma generalmente la mia sensazione è che è un gioco di eccellenze, è una sfida tra eccellenze, certo, no? Il calcio professionistico, e quindi ti basta essere un pochino meno sul pezzo del tuo avversario o un pochino meno forte che arriva la sconfitta, non è che vuoi perdere apposta, no? Sì, ma vorrei che gli sportivi, i tifosi in generale si convincessero che per arrivare a certi livelli o hai quello che dicono a Napoli la cazzimma, cioè sei uno che ha voglia di vincere sempre, oppure non ci arrivo. Poi può essere più bravo o meno bravo, ma se non hai la mentalità di giocare a qualsiasi cosa e vincere da bambino, non arrivi a giocare a calcio a certi livelli. Quindi giocare contro l'allenatore o, come hai ricordato tu, c'è qualcosa sotto e quindi è qualcosa che se ne deve occupare un magistrato, prima sportivo e poi ordinario, oppure non esiste una cosa del genere, oppure sono alibi nei confronti proprio dei calciatori in questo caso, perché hanno incontrato una squadra più forte, perché non sono riusciti a dare il massimo, e che per uno sportivo è bruttissimo. Ma, no? ma quindi però il modo per rimuovere questi alibi qual è, Massimo? Il modo classico è rimuovere l'allenatore, togli gli alibi. Posso dire, sono incapaci di avere rendimento costante, perché l'Inter visto contro la Juventus è una squadra che arriva tra le prime tre, perché non riescono a tenere quell'intensità e quella voglia di vincere anche contro l'Atalanta? Questa è la domanda a cui De Boer dovrebbe rispondere, o meglio a cui molti giocatori dell'Inter che scaricano sull'allenatore dovrebbero rispondere, perché ci sono alcune cose che l'allenatore non te le potrà mai dare, no? Può contribuire, ma non te le può mai dare. Lo terresti? Io metterei Bergomi. Ma a fare l'allenatore o insieme? A fare l'allenatore. A fare l'allenatore. Perché è il momento di serietà e di, come dire, di sapere che c'è qualcuno che conosce tutto lì, che sa a chi rivolgersi, che sa come, come parlare con i dirigenti e con i giocatori. E Beppe è una persona che secondo me adesso è matura, dopo tanti anni di televisione, secondo me adesso è maturo perché gli piace, perché pensa che è il suo mestiere. E siccome partirebbe da centrocampo e difesa a posto e liberiamo la fantasia davanti, io credo che questo deve fare l'Inter, che è quello che intelligentemente ha fatto Montella, che è quello che l'anno scorso ha fatto Allegri dopo le prime 8-9 partite disastrose della Juve, è ripartito da dire prendiamo pochi gol o se possibile nessuno. Ma ci andrebbe o no? Ci andrebbe o no lo zio? Tu un pochino lo conosci, lo frequenti? Sì, secondo me di corsa. Ovviamente io posso sbagliarmi però. Sì, io sì. Penso che ci andrebbe, perché tutti siamo convinti, e questo Beppe anche fuori onda ce lo dice, che l'Inter ha una rosa di primo livello, ed è la verità. È la verità, certo. Tranne magari i due terzini esterni, io avrei scelto altro, senza nulla togliere a Santone e agli altri, però gli altri giocatori secondo me sono di grande livello. Da metà campo in su certamente ha poco da invidiare ad altri, non diciamo alla Juventus, ma ad altri. Posso aggiungere una cosa? Io De Boer lo vedo bene, mi piace, quell'idea di gioco è la mia, però quella si può fare meglio in Spagna e in Inghilterra, dove se perdi tre partite di seguito non ti oddio, adesso anche lì, per esempio, Conte un pochettino, no, dopo qualche partita persa l'hanno un po' bastonato, però voglio dire, lì lo puoi fare. Ecco, qui è un po' più complicato e diciamoci la verità, un allenatore italiano l'avrebbero già cacciato. Sì, ma scrive anche un amico: chi perde 6 partite su 12 e allena in una grande squadra ha tutti i numeri e i titoli per essere cacciato, sì, quindi infatti, di per sé non si non pone il problema. Non si pone non il problema. Sono d'accordo. Mi dispiace, ma sono perché l'intervista contro la Juve è l'Inter di De Boer, però, no? E quindi un po' mi dispiace non averla rivista. Questo è brutto. No, ma Miranda e Mourinho, io non l'ho più visti dopo le 15 partite dell'anno scorso. Sì, si sono persi e già dalla scorsa stagione. Miranda ieri ha detto dobbiamo imparare a difendere un po' più bassi e magari no, a tornare a vincere 1-0. Meglio, anziché parlare. Che significa buttare a mare tutto il gioco di De Boer, certo. Ma te lo ricordi chi ha parlato dopo Sassuolo alla Juventus? Solo il portiere, finito. Chiellini, Barzagli e Bonucci sono stati zitti, si sono presi il rimbrotto di Buffon ed è cambiata la stagione della Juve. Invece là, Miranda va e dà la colpa all'allenatore e dice che la tattica è sbagliata. Questo è che non va bene all'Inter, oltre magari poi alla tattica e alla tecnica. Però no, non c'è assunzione di responsabilità da parte dei giocatori più importanti. Tipo, date la palla a me che i passaggi giusti li faccio io in mezzo al campo. Mi viene anche in mente Massimo e Pierre che Banega, che doveva essere il centro del progetto tattico dell'Inter, da 2 partite sta seduto in panchina. Sì, ma guarda che poi... Magari però, meritatamente, non è, magari però meritatamente. Non è un giocatore che fa la differenza, capito? Cioè ci vogliono 4-5 che dicono bene, adesso date la palla a noi che ci pensiamo, no? Cioè, nelle grandi squadre è sempre stato in questa maniera, qui nei momenti di difficoltà, cioè o ti affidavi a Maradona, a Platini o a Van Basten o per i tempi nostri, non so, a Del Piero, oppure cioè, non è che sono i gregari che possono risolvere i momenti difficili. I gregari sono importantissimi. E qui ci sono tanti gregari e probabilmente nessuno che ha, quel profilo lì. Questo è se tu spendi 40, non so quanto hanno speso per Gio Mario. 40 qualcosa. Deve essere uno che si assume la responsabilità. Di cosa stiamo parlando? Poi non è che uno vuole essere... Adesso parliamo della borsa, fra qualche secondo. Mi dispiace. Buon giocatore, assolutamente buon giocatore, borsa però straordinaria, insomma, no? Anche la borsa un po' incostante. Una volta va bene, una volta va male. Ragazzi, ma si può fare il presidente a 50.000 chilometri di distanza, io non so quanto è l'Indonesia di distanza, ma non si può fare. No, ma è paradossale, anche questo stallo di queste ore, ne parlavamo prima anche con Fabrizio Biasin, grazie Massimo. Ciao. Ciao. Grazie ciao, Massimo ciao, Mauro, ciao. La Borsa, torniamo subito. Tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia il coso rosso, grazie. Radio 24 verso la Casa Bianca. Chi sarà il 45esimo presidente degli Stati Uniti? La sfida tra Hillary Clinton e Donald Trump al giudizio del voto. Radio 24 ti racconta l'America che verrà attraverso un lungo viaggio di avvicinamento in onda dal 1 novembre. Ascolta gli approfondimenti nei programmi, i servizi e gli speciali verso la diretta non-stop che ci porterà alla proclamazione del vincitore. Verso la Casa Bianca. Da ascoltare e da leggere su Radio 24 e radio24.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Giro d'Italia, dai, 800 24 00 24, c'è Pierluigi Pardo, Guido da Milano. Guido, partiamo male. Stefano da Monza, Stefano. Sì, buongiorno. Eccoci. Dai. Ma guarda, io premetto che sono interista dei tempi di Sarti, Brunci, Facchetti, sì. Quindi insomma e così via, per cui in questo momento è chiaro che il mio è un momento di sofferenza, però dico senz'altro che io sono assolutamente contrario ai cambi di allenatori durante la stagione, perché l'allenatore deve programmare, deve farsi il lavoro completo, per cui in questo caso io, come in tanti altri casi, do assolutamente la colpa alla società, che in questo momento mi sembra assolutamente carente. La società deve imporsi, deve imporre l'allenatore e deve assolutamente responsabilizzare i giocatori, magari deve mettere accanto all'allenatore delle persone che sappiano fare i collanti tra la società e i giocatori stessi. Sì, però Stefano, queste sono cose bellissime, ma che si fanno, ci vuole tempo per farle. Io credo, Pierno, il mio pensiero è questo: se c'è un incendio va spento subito, chiunque l'abbia creato, poi c'è tempo per fare accademia e ragionarci. Ma l'incendio è De Boer? Eh beh, in questo momento sì. Allora, se l'incendio è De Boer, se siamo sicuri che l'incendio sia De Boer, va spento. Sì. La squadra sta giocando male a prescindere da chi sia la colpa. Bisogna dar via De Boer se si pensa che sia colpa sua. Beh, per fare un po' meglio di così, forse. Io penso che... Ripeto, io penso che non sia un'illusione che mandando via De Boer l'Inter possa rifiorire, insomma. Nel senso che secondo me ci sono dei problemi strutturali di disciplina, di organizzazione, di continuità, di sopravvalutazione di alcuni giocatori che sono abbastanza evidenti. La scelta di un allenatore nuovo è una scelta fatta per cercare di cambiare la testa a questa squadra. Il risultato al momento è sicuramente disastroso, inutile girarci attorno, e le colpe di De Boer sono evidenti. Però non è, secondo me non è una sta, cioè, e comunque mandarlo via significa riconoscere dopo due mesi che si è sbagliato. Cosa che magari difficilmente avverrà, o comunque saranno scaricate su di lui tutte le colpe, anche quelle che non sono sue. Io questo lo condivido. Paolo da Savona. Paolo. Ciao, buongiorno. Ciao a tutti. Io sono favorevolissimo a mandare via De Boer, però io sono juventino. Sì. Quindi sarei contento, perché ricordo a tutti quelli che chiacchierano l'anno scorso quello che è successo a Allegri: società diversa, situazione diversa, giocatori diversi, però credo che una società seria si affidi a un allenatore e gli lasci il tempo di fare il suo gioco, altrimenti, ripeto, come juventino, se manda via De Boer mi dispiacerebbe moltissimo, però perché temo fortemente che se rimane prima o poi ricomincerà a giocare come ha giocato contro la Juve. Grazie Paolo. Guido, poi Pieri rispondiamo. Guido. Sì, buonasera. Eccoci. Grazie per avermi convocato. Dai. Volevo fare una piccola domanda al signor Pardo. Io reputo l'Inter una squadra scriteriata di buonissimi giocatori, grandi nomi, e non c'è proprio una cognizione di gioco, perché ognuno gioca per sé in questa squadra. Non è colpa né di De Boer né di Mancini, continuano a comprare un sacco di giocatori mal sincronizzati. E se il signor Mazzarri avesse avuto i giocatori che gli hanno dato in questi anni a, ai vari allenatori, penso avrebbe fatto meglio di tanti altri. Pier? Ma sicuramente il talento c'è ed è un talento abbastanza disorganizzato, nel senso che è una squadra che per me anche come caratteristiche è abbastanza difficile da assemblare, perché ci sono, per me Icardi è un grande giocatore, tanto per essere chiari, Banega è un ottimo acquisto, Romario è un buon giocatore, anche se 40 milioni secondo me non li vale, mi assumo le mie responsabilità, però è un buon giocatore sicuramente. Poi ci sono altri reparti che sono molto deboli, i terzini sono oggettivamente un problema, non è un lavoro facile, non è un compito facile. Detto questo, sono d'accordo sul fatto che possa fare meglio. Ecco, quando si dice non è colpa di De Boer, io adesso De Boer dico che non va mandato via, però sicuramente anche lui deve dar di più. Però quando cambi cultura calcistica, quando cambi tutto, lingua compresa, qualche tempo, settimana la devi dare, perché se no, che l'hai presa a fare? Ribadisco il concetto, l'hai presa a fare? L'hai preso per una stagione di transizione. Che nessuno di noi immaginava che l'Inter perdesse 6 delle prime 12 partite stagionali. Questo è ovvio, che siamo sotto il par, anzi dovremmo dire sopra il par, perché stare sopra il par vuol dire andare male, no? Per usare un gergo golfistico, questo è evidente. Però ripeto, secondo me adesso è metà ottobre. Se tu hai preso De Boer perché pensi che possa portare nel medio periodo questa squadra a giocare in un certo modo, un'idea di calcio diversa a quella che si è intravista in Inter-Juventus, quella della quale parlava Massimo Mauro, gli devi dare, secondo me, una possibilità. Poi, a Natale è chiaro che due conti li puoi fare, ma ottobre mi sembra presto. Pier, saluto Paolo De Paola, direttore di Tutto Sport. Ciao direttore, buon pomeriggio. Ciao a tutti, ciao. Vi faccio sentire, insieme a Giorgio De Luca, tre cose intorno alla Juve dominante. Poi nei fatti la Juve due volte a Milano ha perso. Categoria e sta facendo il campionato da squadra di un'altra categoria. Noi a livello di squadra non abbiamo assolutamente mai avuto l'idea che il nostro campionato dovesse essere in parallelo con la Juventus. Quindi noi siamo una squadra giovane, una squadra che deve crescere. Ha più numeri di tutti, è la più forte di tutti, ha fatto vedere l'anno scorso, lo sta facendo vedere quest'anno, deve ancora migliorare, perché secondo me la Juventus migliora per la forza che ha, per cui noi bisogna saper poi sfruttare tutte le situazioni perché non ripassano. Le partite che noi giocheremo ora non ci ricapitano dopo, per cui visto che siamo dietro bisogna sfruttarle. Non ci dobbiamo pensare davvero, praticamente non ci dobbiamo pensare, oggettivamente non ci dobbiamo pensare, perché la Juve secondo me è una squadra invincibile anche quest'anno e dobbiamo pensare soltanto al nostro campionato e a fare il nostro percorso. Allora, da Sarri, quello passato alla storia recente di questo campionato, fino a Montella che avete sentito, oggi in questo momento secondo in classifica, tutti a dire che la Juve è imbattibile in Italia. Paolo De Paola, Pierluigi Pardo, c'è però qualche problema, ad esempio un tema, c'è il tema che Allegri la sta facendo giocare male? Direttore. Comincio io? Sì. Vai. Sì, no, dico, è evidente che la Juventus sta cambiando pelle, sta cambiando qualcosa. Gli inserimenti di Higuain, di Pjanic soprattutto, una sintonia che va trovata fra i reparti con l'assenza di Pogba, che si fa sentire soprattutto a centrocampo. Ecco, questo crea dei problemi e soprattutto crea dei problemi mentali in giocatori abituati a vincere che credono di poter risolvere la partita singolarmente. Ma questa non è mai stata una caratteristica della ultima Juve. Cioè, certo, una squadra matura, una squadra rodata ad altissimi livelli può permetterselo, ma non è ancora questo lo step della Juve. La Juve ha bisogno di trovare una formula di gioco che possa in qualche modo corroborare i risultati che che finora ha ottenuto e che sono stati oltre le aspettative per quello che ha mostrato in campo. A livello di punti, quindi non è attuale il tema, lo dice, lo scrive qualcuno, a centrocampo la Juve si è indebolita ad esempio? Ma io penso di no, cioè sinceramente non credo che la Juve sia indebolita a centrocampo, perché comunque ha la possibilità e avrà la possibilità anche a gennaio con Witzel, con Matuidi poi, insomma, di poter inserire un altro, chiamiamolo un mediano, un qualcuno che possa in qualche modo interrompere il gioco avversario, ma soprattutto ecco, sono mancati all'inizio di questo campionato sia Marchisio sia Sturaro, che stanno per tornare, insomma quell'incontrista a centrocampo che sicuramente è venuto un po' meno, ma non credo che sia soltanto quello il problema. Pierre. Beh, Marchisio non è un dettaglio innanzitutto, e quindi è chiaro che bisognerà valutare poi il centrocampo della Juve dopo il ritorno in pianta stabile di Marchisio. Sicuramente la squadra sta cambiando pelle, sicuramente sta provando delle cose nuove, e su questo non ci sono grandi dubbi. Io credo che sia ancora la favorita di tutto. Allegri non ha, a differenza per esempio di Conte, l'ossessione della partita, di ogni partita, di ogni singolo dettaglio, di ogni risultato. Cioè, ce l'ha, ma non sempre riesce poi a trasferirla in risultati. Allegri è un gestore perfetto, eccezionale. Io guardo la classifica del girone in Champions, guardo la classifica della Serie A, vedo che ci sono ampi margini di crescita dal punto di vista del gioco, e penso che la Juve sia messa molto bene. Questa è la mia percezione, proprio perché il gioco sì, fin qui non si può ribaltare quello che abbiamo detto e stiamo dicendo da qualche mese a questa parte, Pier. Che senso? Che la Juve è una squadra destinata a dominare questa stagione in Italia. Ragazzi, poi in questo momento se ci avessero detto ci sono delle dopo difficoltà. 9 giornate che la Juve è in testa alla classifica, più 2 sulla Roma, il Milan ha più 4 sul Napoli, in testa al girone di Champions League con 7 punti in 3 partite, che avremmo detto? Cioè, sinceramente, cosa avremmo detto? È sorprendente in negativo, no, poi che ci siano dei passaggi a vuoto, che Dybala fuori adesso per 20-25 giorni possa essere un problema, che Higuain sia ancora non del tutto nella squadra, non so chi oggi ha scritto, forse sulla Gazzetta dello Sport. No, adesso ne parliamo, c'erano le statistiche su tanti giornali, questo fatto che Higuain è isolato, ci sono anche le statistiche su come veniva coinvolto un anno fa nel Napoli e come è stato coinvolto in queste prime 9 giornate, anzi tema assolutamente interessante. Io chiedo un minuto di pazienza al direttore De Paola perché abbiamo il traffico, velocissimo, e poi proprio di questo voglio parlare, traffico. Tutti convocati. I love this game. Tutti convocati. Tanti tifosi della Juve scrivono lamentandosi che non si dà il giusto peso all'errore di Rizzoli, abbiamo anche delle mail, abbiamo ricevute, in realtà è la Juve per prima, che secondo me con grande maturità non l'ha fatto. Paolo De Paola, direttore di Tutto Sport, Pierluigi Pardo, errore che c'è stato, sia chiaro. Sì, Pierluigi Pardo, ne parlate, sì, pochino. Certo, ne parliamo, ci mancherebbe altro. Tra l'altro oggi Montella ha detto che con la VAR non sarebbe successo, o meglio, ha detto che con la VAR in realtà la decisione finale sarebbe stata la stessa. Cosa che mi sento di escludere, con la VAR il gol sarebbe stato concesso. Però parliamo di Higuain, coinvolto o no nel gioco della Juventus, direttore De Paola. Ma le statistiche dicono che fino a questo punto Higuain è stato servito nella metà dei casi rispetto all'anno scorso, nello stesso periodo al Napoli. Ecco, però io dico anche di guardare l'altra faccia della medaglia. Probabilmente a Napoli, anzi sicuramente, Higuain era il finalizzatore vero della manovra di gioco d'attacco del Napoli, e infatti qualche difficoltà del Napoli in questa prima fase di campionato si avverte proprio in quella mancanza di conclusioni. Per quanto riguarda il gioco della Juve invece è un altro modello, proprio un altro tipo di approccio, che non ha soltanto Higuain come bocca di fuoco ma ha anche altre risorse. Ecco, quindi le statistiche servono, ma fino a un certo punto. Le statistiche del resto sono state ribaltate l'anno scorso, Higuain comunque ha 6 gol, cioè campionato ne ha segnato uno in Champions, non è ancora al massimo della forma e sicuramente potrebbe essere rifornito in maniera più adeguata, però ecco, sì, però ha colpito, direttore Pier, vederlo sabato sera 6-7 volte chiedere palla e restare lì senza riceverla fa un po' effetto fa un po' effetto sì, no, questo è È vero, è reale, ma però questo è il classico argomento che mi fa, dal punto di vista invece di un amico dodicenne tifoso della Juve, mi fa dirgli veramente stai serenissimo, perché cioè tutta una gag, magari De Paola prima non ci sentiva, sì, sì. Però insomma, sono i consigli per anche uno, di 50, perché la prospettiva è un pochino più nell'immediato, perché secondo me la verità che è evidente davanti a noi, cioè quella di un Higuain ancora non del tutto inserito nei meccanismi della squadra, non è altro che una ulteriore opportunità che la Juve ha, nel senso che se quando fra qualche giornata magari dovesse aumentare l'intesa, insomma sicuramente ci sarebbe un vantaggio, quindi francamente mi sembra un'ulteriore occasione. Questa squadra è in testa alla classifica e gioca male, è in testa al girone di Champions e gioca male, tra mille virgolette, ha Higuain al quale non passa il pallone, che però ha fatto 6 gol fino adesso, insomma, e sembra qualche margine di crescita c'è, per usare un eufemismo. Voglio chiedere proprio in un flash a De Paola, prima di salutarlo, senza Dybala cambia modulo? Direttore, caduta la linea, lo ringraziamo. Secondo te cambia modulo, Pier? Può cambiare modulo perché quest'anno insomma la Juve non ha 5 attaccanti, se ne ha 3 diciamo di attaccanti di punte centrali, quindi a questo punto io penso che ci sarà una, così come quando si è fatto male Milik nel Napoli, si alternano due soluzioni, una con Gabbiadini in campo e una con invece una variazione tattica con il falso 9 tendenzialmente Mertens. Io penso che la Juve nel calendario fitto di questo periodo alternerà situazioni con Mandžukić e Higuain insieme ad altre in cui giocherà con due esterni che ci sono, perché Piazza ha fatto delle cose molto interessanti e Cuadrado può fare tranquillamente l'esterno, quindi anche qui ci sono margini. Non sì, penso che ci sarà una soluzione, solo penso vedere che si alterneranno queste due situazioni. Chi hai stasera? Stasera abbiamo Eusebio Di Francesco, abbiamo un'esclusiva con Galliani, abbiamo tantissimo chiaramente sulla moviola di Milan Juve, fitta e ricca di episodi, tutti gli aggiornamenti sull'Inter, poi abbiamo un sacco di gente, Corrado Formigli, Maestro Vissani, Martina Colombari, ovviamente Mughini, Auriemma, Sabatini, Ordine, ma come li ricordo? A occhio non avrete il nome del nuovo allenatore dell'Inter. No, vediamo. Ma so che tu non condividi. Che cosa? Che l'Inter debba avere un nome nuovo da mettere in panchina, magari già da mercoledì, perché la casa brucia. Ne abbiamo parlato brucia. per tutta la puntata, quindi assolutamente. Preso, considerata la fretta e la necessità di fare risultati subito che l'Inter aveva, insomma, andare a prendere il 9 agosto De Burr, certamente tutto è meno che un traghettatore. È stato un rischio mal calcolato. Ciao Pier, a domani. Ciao. A domani dopo il GR delle 14, noi invece torniamo tra pochi minuti dopo il GR delle 15. Tutti convocati. Non si fa fatica, ragazzi. Se negli ultimi 30 anni vi siete persi in qualche universo parallelo, mi presento. Sono Dylan Dog, quel Dylan Dog. Anche tu ami l'indagatore dell'incubo. Raccontaci perché con una mail a dylandog@radio24.it e potrai ricevere in regalo una copia di Dylan Dog Diary. Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo, ogni sabato alle 15 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Eccoci qua con Roberto Ungaro. Sì, funzionano i microfoni. No, lui non funziona. Adesso recuperiamo, un attimo. Eccoci qua con Roberto Ungaro. Ciao Giovanni, saluto per tutti. Il punto sulla MotoGP, che va molto meglio di noi. Sì. No. Allora, ieri Gran Premio di Australia, Phillip Island, Marquez che si è esteso per la prima volta nella stagione. con penalità, nel senso che era già caduto in Francia, se non sbaglio, era già andato un po' titolo un po' per vinto, le terre. Aveva dichiarato voglio tornare a divertirmi e ce l'ha fatto vedere, ha fatto un errore da cadetto perché essere così davanti con margine di vantaggio estendersi e poi ha ammesso comunque la sua colpa, però il titolo ce l'aveva già in tasca, è stato perdonato e quindi sarebbe stato interessante vedere magari il recupero di Valentino, perché partire quindicesimo e dopo otto giri essere quarto, a me è sembrato di vedere il Valentino proprio di una volta quando faceva queste gare incredibili proprio a Phillip Island. Grande grande prestazione, è vero che è un po' stata falsata perché non c'era Iannone, non c'era Pedrosa che potevano essere protagonisti lì, però è stato un grandissimo risultato, ha fatto sua la seconda posizione, dovrebbe essere ormai certa, quindi Lorenzo assente ingiustificato, cioè un posto assolutamente anonimo, è la riflessione. Lorenzo è completamente sparito nella seconda metà della stagione. E la mia riflessione è che è il più pagato del paddock, perché 25 milioni per due anni l'anno prossimo in Ducati, e però sulla carta è quello che vale meno, ha sofferto troppo il meteo, mentalmente è instabile e soffre troppo queste cose e paga. Il titolo, l'abbiamo detto, è stato meritatissimo da parte di Marquez, che l'ha chiuso anzitempo con tre gare d'anticipo. Quello che abbiamo visto ieri però è una gran bella gara e un gran bel craccio, che se aveva vinto a Brno però con l'acqua e quindi c'era un punto di domanda, qui ha dimostrato che lui c'è, era la sua pista, già due anni fa buttò via una possibile vittoria con la Ducati quando cadde alla fine proprio, e ha confermato che Honda è risorta, perché Honda adesso è una moto che è guidabile, vanno forti in molti. Non dimentichiamoci di Hayden, prima di essere stato steso da Miller, era una buonissima posizione e venendo dalla Superbike sale sulla moto la prima volta e va subito forte. È vero, è Hayden, però vuol dire che la moto c'è, è una moto che la possono usare in molti. E torniamo sempre al solito discorso che la Honda è cresciuta enormemente nel corso di questa stagione, altri invece si sono fermati. Ti faccio sentire Valentino Rossi al termine del Gran Premio. È stato molto importante cercare di rimanere concentrato e cercare soprattutto di andare piano piano, step by step, perché non volevo fare un altro errore, soprattutto dopo la gara di Motegi. Sinceramente quando è caduto Marquez ho pensato di poter vincere, perché speravo di andarlo a prendere Cracci, ma nella seconda parte di gara ho sofferto un po', lui è stato più veloce e quindi grandi complimenti. Però secondo me i primi 10 giri sono stati belli, li voglio rivedere. Sono stati belli e alimentano il grande rimpianto per il Gran Premio, altro non ci spingiamo a pensare. Per la stagione, dici? Sì, sarebbe stata una stagione diversa se non avesse buttato via almeno quattro gare. Valentino se la sarebbe potuta giocare, anche se secondo me con il Marquez di quest'anno sarebbe stata veramente dura, perché è un Marquez irriconoscibile rispetto al passato. Quello di ieri è il Marquez solito, ma il Marquez di quest'anno che ha fatto ragioniere era veramente difficile batterlo, a mio avviso. Sarebbe stato un bel confronto, però difficilissimo. Noi facciamo finta di non ricordare che un anno fa di questi tempi stavamo precipitando nello psicodramma del biscottone. Mamma mia, un incubo. Poi, per fortuna, comunque l'analisi di questa stagione devo dire che è super positiva, nonostante l'incognita delle gomme Michelin, perché il nuovo regolamento però ha rimescolato le carte, tanti vincitori diversi e una Honda in difficoltà, erano anni che non capitava, e quindi ha permesso a tanti altri di essere protagonisti. Abbiamo finalmente avuto un Iannone che si è sbloccato con una vittoria, stessa cosa per l'inglese Crutchlow, e Ducati che è cresciuta molto, anche se il podio poteva starci. Dovizioso lo vedevo veramente in difficoltà nelle S, nelle curve, la sua stessa missione di ciclistica non ci sono ancora nelle curve di ritorno da 180 gradi, gran motore sì, ma la Ducati deve comunque migliorare molto di ciclistica. Vedremo l'anno prossimo con Lorenzo, a mio avviso non sarà una stagione facile. No, scrive un amico, Lorenzo il prossimo anno farà ridere, purtroppo senza moto perfetta farà come sta facendo adesso. È un fondo di verità, c'è il rischio assolutamente. Non è la Ducati che prese in mano Valentino, che a momenti li faceva abbandonare questo mondo, però Lorenzo, che è abituato con una quattro cilindri in linea giapponese, una moto precisa, se l'è cucita addosso con la sua linea, con passo veramente molto pulito, la Ducati, che è un po' un toro imbizzarrito che va guidato di prepotenza, secondo me ci sarà un bel litigio, devono parlarsi quella moto e quel pilota, perché non è detto che possa essere un matrimonio perfetto. Quindi l'ascoltatore ha ragione. Ne sa, sì. Valentino tira dritto, giusto? Valentino non ce ne liberiamo. No, fortunatamente ancora due anni si dice addirittura, e finché è così, finché si diverte. Io fossi negli altri piloti mi farei delle domande, perché prendere paga così da un 37enne c'è qualche cosa che non va. Quello è una certezza. Finché abbiamo un Valentino così che si diverte, appunto, che ci crede, secondo me lo vedremo sempre lì e protagonista. Speriamo che non getti via come ha gettato via quest'anno, ma l'avevo già detto. E secondo me che mi ha stupito è quando ha sbagliato strategia nel rientro al box, perché la caduta ci può stare con queste Michelin. Tutti hanno sofferto di questo anteriore che non c'è, ma la strategia sbagliata di non rientro al box lì non è un errore da Valentino. Anche sabato c'è stata un po' di confusione, che poi è quella che l'ha costretto a partire quindicesimo e di fatto a consegnarsi a un'impresa impossibile, a una rimonta che credo neanche il grande Valentino Rossi, quello di 10 anni fa, avrebbe mai potuto completare. Immaginare sì, sembrava di rivedere lui, però, e quindi quello è il Valentino che conosciamo. Finché così ci sarà sempre. Grazie Roberto. A te un saluto a tutti i radioascoltatori. Si torna in pista prossimo weekend, quindi Roberto Ungaro torna con noi il prossimo weekend, Gran Premio della Malesia un anno dopo. Lo ricordate, no? Marquez a cannone su Valentino Rossi. Ferita non si è ancora rimarginata, stagione falsata. So che Roberto Ungaro la pensa diversamente, però grazie un Roberto. Saluto a tutti, ciao. A proposito di stagione falsata, i tifosi della Juve sono arrabbiatissimi. Noi parliamo quanto volete di Rizzoli, Pjanic, Bonucci. Anzi, vi faccio sentire Montella oggi a proposito del gol di Milan-Juve. L'intentamento l'ha dovuto avere e lo stop della corsa l'ha dovuto avere il momento in cui ci aveva Benatia in fuorigioco sulla traiettoria, e quello ha permesso di fargli perdere il passo al portiere, altrimenti l'avrebbe toccata di petto, l'avrebbe fermato di petto. Quindi questo è quello che ho visto io. Quindi secondo me, che sono favorevole alla tecnologia, nemmeno la VAR avrebbe in poco tempo potuto decidere cosa fosse giusto o cosa fosse sbagliata, ammesso che si sappia ancora ad oggi. Quindi stiamo parlando di episodi al limite che comunque, io lo dico spesso agli arbitri quando è in serenità, dico ci sono episodi che comunque sia, qualsiasi sia la scelta, qualche squadra la scontenti. Allora, questo Montella, diciamo tre cose. La prima è che Massa, l'addizionale di Milan-Juventus, mercoledì sera farà Inter-Torino da arbitro, quindi evidentemente la sua prestazione è stata giudicata positiva. Rizzoli andrà a fare l'addizionale di Lazio-Cagliari, Cariolato, che era l'assistente, invece si riposa per un turno. La seconda è che evidentemente Montella fa una ricostruzione che viene però smentita da tutte le moviole. La terza, più interessante, è che in realtà la VAR sarebbe intervenuta e avrebbe cancellato quell'errore, mentre ad esempio, dice chi sta seguendo la sperimentazione, non sarebbe intervenuta su altri casi di questa giornata, ad esempio sulla manata di Paletta Bonucci da calcio di rigore, ad esempio per cancellare il rigore che ha consentito al Toro di pareggiare contro la Lazio, ad esempio per cancellare la punizione che poi era trasformato in gol. La VAR è da studiare. Mauro da Bologna, Mauro. Salve, buongiorno. Eccoci. Allora, io volevo dire, innanzitutto, cioè, per il discorso Inter, a me sembra che la società sia in confusione e ha preso un allenatore che, secondo me, io ho giocato un po' a calcio, non tantissimo, non a grandi livelli, però il bravo allenatore è quello che tira fuori veramente di più da un giocatore. Questi sono bravi di loro, cioè voglio dire, non si capisce perché possano giocare così male. Il mio pensiero è questo, cioè la società è in confusione, i giocatori girano in campo che sembrano, non sembrano neanche andare dove devono andare, cioè non si capisce più niente. Ma per questo credo l'analisi, Mauro, sia da fare su più livelli. Quello immediato è la gestione tecnica della squadra. Il mio pensiero è che un allenatore che perde metà delle partite in un grande club abbia finito la sua avventura, anche se non è l'unico responsabile. Poi c'è tutto il resto, a partire dalla società, le responsabilità dei giocatori cui vanno tolti gli alibi. Sentivamo prima Massimo Mauro, però qualcosa va fatto in fretta ed è quello che l'Inter non ha fatto in queste 21 ore. Roberto da Rimini. Sì, buongiorno, grazie. Eccoci. Io intervenivo a proposito proprio di Massimo Mauro, le opinioni che ho sentito prima esprimere da Mauro. Tra l'altro mi rimango esterrefatto da una persona che ha giocato a certi livelli a calcio. Io ho sentito dire da Mauro, può essere che abbia sbagliato perché stavo guidando e sono sobbalzato, che Miranda è un giocatore che non si sta esprimendo più sui livelli, eccetera, eccetera, che Banega è un gregario, Cioè, in più Mauro ha detto che Banega non si sta esprimendo da leader, esprimo il concetto. In più ha detto che la Juventus vista contro l'Inter era la Juventus di De Boer. No, a parte il fatto che contro la Juventus e contro la Roma Banega è stato migliore in campo insieme a Miranda. Con la Juventus la partita l'ha vinta quasi solo Icardi, quindi non vedo la mano di De Boer, non ho mai visto la mano di De Boer quest'anno. Basta vedere le partite dell'Inter, non esprimere dei giudizi così a caso come ha espresso Mauro, perché se non era per Miranda anche ieri a Bergamo avremmo preso 5 gol. A me sembra Roberto che la coppia dei difensori dell'Inter non si stia esprimendo su grandissimi livelli. Poi dopo, per carità, tutto è opinabile. Io penso anche che sia l'Inter di De Boer tutta, cioè quella che ha vinto con la Juventus, quella che ha vinto bene ad Empoli, altra partita anche con un approccio mentale diverso, ma sia un Inter anche quella che per 9 partite su 12 è andata sotto per prima, e anche questo è un altro tema di cui discutere. Pino da Roma, Pino. Buongiorno, grazie per la convocazione. Eccoci. Buongiorno, interista da sempre. Sì. Il problema per me dell'Inter è che non ci sono interisti all'Inter. Diceva bene prima Mauro, ci vorrebbe un Bergamo, ci vorrebbe un Nicola Berti, questa gente qui che va a parlare con i giocatori. De Boer io lo lascerei, per carità, perché se no facciamo sempre la fine e la solita barzelletta dell'Inter. Però dovrebbe cambiare anche lui un pochetto modulo. Non può giocare sempre con Icardi isolato là davanti, che non la prende mai. Sì, anche se il tema di Icardi isolato è un tema che ha già affrontato Mancini nei mesi scorsi, quindi evidentemente non è neanche semplice supportare Icardi e costruirgli intorno una squadra. C'è chi dice il rigore su Romagnoli, l'espulsione di Pjanic, non abbiamo fatto la moviola di tutta la moviola di Milan-Juventus. Il rigore su Romagnoli c'era, l'espulsione di Pjanic probabilmente anche, e questo è. Rizzoli ha avuto una pessima serata, inutile girarci intorno. Vi faccio sentire ancora, a proposito di Milan, Montella sull'euforia, poi ne parliamo con Filippo Galli che ci ascolta. Montella. Ho semplificato questo concetto, che è giustissimo: l'entusiasmo ti porta qualche punto in più, l'euforia ti toglie qualche punto, quindi noi dobbiamo lavorare sull'entusiasmo come squadra, e poi che ci sia l'euforia fuori va bene lo stesso, ma l'importante è non sfociare, non andare oltre, perché ti toglie qualche punto. Questo Montella. Filippo Galli, ciao. Ciao, ciao a tutti. Oh, buongiorno. A proposito di euforia, tema delicatissimo, soprattutto se si parla di una squadra giovane, come è il Milan, che in tanti stanno scoprendo. Ne parlavamo ieri con Carlo Genta, Luigi Pardo, Demetrio Albertini. Forse non è un caso se negli ultimi anni il Milan ha cominciato a sfornare da un settore giovanile che è stato riorganizzato, messo in mano a chi ne capisce, Filippo Galli, ma non solo, se poi si raccolgono i frutti. Ma guarda, allora, innanzitutto non ci sono né maghi né guru, c'è solo tanto lavoro, la voglia di mettersi a disposizione di questi ragazzi, di creare loro un contesto corretto perché il talento emerga, venga fuori, insomma, ecco. Quindi è chiaro che il talento deve essere in questi ragazzi, deve essere presente, ma poi dobbiamo creare il contesto perché questo talento esca. Non c'è una ricetta, perché non c'è una ricetta, non vale per tutti, e quindi la cosa bella è anche questa, no? Ogni giocatore, ogni ragazzo è a sé, è unico, e quindi è trovare la strada giusta, il percorso giusto per ognuno non è facile. Fernando Montella ha ragione, no? Sa benissimo che adesso viene il difficile, perché anche per i ragazzi, per i più giovani, no? Tutto, finora era tutto diciamo così, da scoprire, anche per quanto concerne la tifoseria e i tifosi, e ora magari le aspettative diventano alte. Credo che sia importante invece mantenere equilibrio, come sempre in tutte le situazioni. Locatelli, a chi assomiglia di più? Assomiglia, non l'erede, non uguale, non più forte, non meno forte. A chi assomiglia di più? Perché il tema è aperto. A Pirlo o Albertini? Non so. Come Locatelli, caratteristiche, dai, aiutaci a conoscere, noi lo stiamo conoscendo ma adesso. Ma Locatelli, ripeto, è un giocatore che nel settore giovanile, nelle varie categorie, era un giocatore considerato di qualità, un giocatore che vedeva il gioco prima, del passato, e quello che si faceva da giocare. Arrivando già in primavera, poi con Mister Rocchi è diventato anche un giocatore, lo abbiamo aiutato, e lui si è messo del suo, diventare anche un giocatore così, chiamiamo tra virgolette, di rottura, in grado anche di fare il lavoro sporco, perché comunque giocare in un ruolo come quello del play, devi per permetterti di giocare in un grande club, in un pubblico come quello di San Siro, devi saper fare le due fasi, e quindi su questo Montella davvero ha lavorato molto bene anche lui e gli sta facendo delle richieste particolari e il ragazzo sta rispondendo. Ora auguriamo tutti che la risposta sia costante. Sappiamo tutti che nei giovani ci sono dei momenti, ci possono essere alti e bassi più facilmente rispetto al giocatore. Ma prima di lanciarlo ti ha chiesto qualcosa Montella? No, assolutamente. Senti, secondo te è solo una suggestione l'idea che alla fine Berlusconi potrebbe lasciare un Milan abbastanza simile come valore di ragazzi italiani lanciati provenienti dal vivaio a quello che ha ereditato 30 anni fa? Beh, è quello che ci auguriamo un po' tutti, no? Insomma, poter avere una base di ragazzi nella prima squadra, quindi aumentare questa identità, senso di identità, cosa poi che diventa nel tempo senso di appartenenza, credo che sia un valore importantissimo per un club come il nostro. È l'augurio che ci facciamo tutti noi, detti lavori, ma soprattutto che si fanno anche i tifosi. Io sono anche un tifoso rossonero. Sì, bisogna evitare di caricare questo gruppo di pesi. No, esattamente, di eccessive aspettative. Ecco, direi sicuramente un pauso a Montella, a tutto lo staff di lavoro, ai ragazzi, ai più giovani e meno giovani, perché come sempre il mix è importante, no? In un club che vuole raggiungere, una squadra che vuole raggiungere risultati. Anche perché bisogna mettere in conto che qualche altra scivolata potrà esserci. Cioè, l'andamento del Milan è quello tipico, credo, delle squadre giovani. 3 punti nelle prime 3 partite, poi 5 vittorie, un pareggio, 7 gol presi in 2 partite, poi la difesa che improvvisamente sembra diventata di ferro. Ma sì, cioè, io credo che abbia già detto tutto Montella, no? L'entusiasmo sicuramente aiuta a dare una prestazione oltre quelle che sono le aspettative, però bisogna stare attenti a non eccedere, no? Io, insomma, poi ci sono delle situazioni, dei momenti che si volgono a favore della squadra e quindi arriveranno dei momenti in cui invece sarà più difficile gestire le difficoltà. Credo che faccia parte di un processo di maturazione di una squadra che ha appena avviato il Milan con l'arrivo di Mr. Montella. Grazie Filippo. Grazie a voi. Grazie a Filippo Galli, responsabile del settore giovanile del Milan, da cui stanno uscendo tanti talenti. È caduto vittoria dalla provincia di Frosinone. Vi faccio sentire i 3 gol, 3 dei tantissimi bei gol che si sono visti in questo fine settimana. Così magari ci scrivete qual è il vostro preferito. Partiamo dal gol di Immobile in Torino-Lazio, la mezza rovesciata. Felipe Anderson al cross, palla interessante, palo lungo, Immobile in mezzo alla rovesciata, un gol straordinario, 1-1, Ciro Immobile, il gol dell'ex al 26esimo del secondo tempo sotto il settore dei tifosi laziali. Poi Eder, la punizione Atalanta-Inter 1-1, poi è arrivato il 2-1 sul rigore dell'Atalanta. Neanche troppa rincorsa per Eder, che effettivamente calcia potente! E segna un gol da favola, quello dell'1-1 che rimette l'Inter in partita. E poi poteva mancare, no? Quello di Locatelli a Buffon. Sta arrivando Locatelli, buona posizione per lui. Prova il tiro, rete incredibile! Locatelli, incredibile! 18 anni, Milan-Juve, Locatelli dalla all'incrocio dei pali. Gianpaolo da Milano, Gianpaolo. Buongiorno a voi, buon lavoro. Eccoci. Volevo semplicemente fare un'osservazione sull'Inter. Io sono tifoso milanista, dico subito. Sì. Però una cosa molto semplice. Io questo De Ver lo paragono un po' con le dubbie proporzioni, i tempi, eccetera. Allora, cioè questo sta cercando di cambiare la mentalità, lo stile, il gioco dell'Inter, che da quando io uso della ragione, a parte qualche sprazzo con Mancini, qualche sprazzo, gioca l'italiana con dei grandi attori, il grande attore davanti, Ronaldo, Rummenigge, cioè gioca l'italiana. Allora sta facendo una rivoluzione copernicana all'Inter, bisogna dargli tempo, perché questa gente qua arriva in un ambiente, anche come tifosi, che non sono abituati a vedere il bel gioco, sono abituati a vedere vincere, punto. Sì, però io credo, Giampaolo, io credo che tu abbia ragione. Si possono accettare anche le stagioni di transizione, anche se l'Inter esce da tante stagioni di transizione dopo quello che è successo nel 2010, però esiste sempre un punto di mediazione tra vincere necessariamente subito e una squadra 14esima in classifica e che dà evidenti segnali di essere a disagio in campo. Io credo che il tema sia questo. Vittorio, sì, eccoci, dai. Buongiorno, grazie per la convocazione. Io volevo ritornare sul discorso del gol annullato alla Juventus. Sì. Ok, allora io ho sentito, ascolto, diciamo, seguo il calcio, quindi ascolto le varie trasmissioni radio-televisive, eccetera. Ma nessuno ha detto quello che ha detto Montella oggi, cioè che il giocatore che sta andando verso la palla ed è in fuorigioco è fuorigioco attivo e quindi il gol va annullato. Ma perché non lo è però, Vittorio? Le regole sono molto strette da questo punto di vista, per carità, poi Montella giustamente ricostruisce l'episodio in questa maniera, ma Benatia è lontanissimo, non ostruisce la visuale di Donnarumma, fa un movimento, il famoso challenging, non contende il pallone. Guardate che ci sono casi di gol in palese fuorigioco che sono stati dati buoni e che per la FIFA sono buoni. Mi viene in mente il Napoli a Bilbao, ad esempio, con i giocatori a stretto contatto a lottare sul pallone, e anche lì non era fuori gioco secondo l'interpretazione delle regole. Quel gol lì, quello di Pjanic, era semplicemente buono, però domani possiamo andare avanti a parlarne. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Andrea Roccabella in regia. Domani, dopo il GR delle 14, con Pierluigi Pardo e Carlo Genta. Ciao.